bianco, brucia ogni cosa, assenza perfetta che allude alla vita. La stanza grida, la terra grida, fa che non sia più niente, fa che non sia più niente. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il canto rubino che le mie labbra bramano. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il bacio dannato che le mie labbra bramano. Lo spazio precipita, la verità precipita, vuoto dietro gli occhi, l'identità precipita, il monaco, il filosofo, l'amante, l'assassino, fa che non siano niente, fa che non siano niente. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il canto rubino che le mie labbra bramano. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il bacio dannato che le mie labbra bramano. Il filosofo, l'amante, l'assassino, identità perdute, identità perdute. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il canto rubino che le mie labbra bramano. Tu accendi il giorno che le mie mani cercano, il bacio dannato.